Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Rieccoci, nuova domenica, nuova puntata di Personal Best, e puntata particolare quella di oggi, perché non è facile parlare di movimento quando si deve stare fermi, ma in qualche modo ci proviamo, cercando anche di rispettare le nuove modalità di lavoro e anche le distanze. E anche per questo possiamo dire che oggi Ivana Di Martino non è qui al mio fianco, ma è al telefono con noi. Ciao Ivana. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo fare una lunga premessa, perché ci avete scritto in tanti: si può correre, non si può correre, si può fare sport. Il decreto dice: lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. A me viene da dire: facciamo anche due, e in ogni caso bisogna evitare gli assembramenti. Poi si dice anche che si può uscire solo per andare a lavoro, per ragioni di salute o per l'acquisto di beni essenziali. Forse possiamo far rientrare lo sport, appunto, una passeggiata nelle ragioni di salute, ma personalmente ho scelto di non correre, anche se questo sarà irrilevante e più, giustamente. Ho corso l'ultima volta domenica scorsa con Ivana e mi rendo conto di essere un po' un soldato. Mi dicono di stare fermo e sto fermo, però non è vietato. La corsa solitaria quindi è consentita, anche se alcuni sindaci, come stiamo vedendo, chiudono molti parchi per cercare di limitare l'attività, seguendo anche un po' il diktat tutti a casa. È arrivata qualche segnalazione che ci dice: le forze dell'ordine hanno fermato in alcuni casi i runner, consigliando di non andare troppo in giro e di tornare a casa in fretta. Certo, dobbiamo e possiamo evitare di correre vicino a chi fa la fila sul mercato, scegliendo magari luoghi più tranquilli e poco frequentati, anche se poi entriamo in ambiti forse legati alla sicurezza personale. Inoltre, Ivana, poi ti lascio la parola, ho visto foto dell'Alzai Naviglio Grande a Milano, dove spesso corriamo anche noi, gremita di gente che corre. Forse questa non è la scelta giusta. Tu come ti stai comportando? Come mi sto comportando? Allora, ho avuto dei momenti, devo dire, abbastanza di sconforto, soprattutto all'inizio della settimana, perché ero molto indecisa su cosa fare. Più che altro perché, come ben sai, mi sto preparando da tempo per le gare, ovviamente l'hanno annullata, quindi cosa fare? Allora, dunque, io ho deciso che comunque almeno 2-3 volte a settimana vado a correre in solitaria. Okay. Questo cosa significa? Che scendo, io abito a sesto piano, faccio le scale e non l'ascensore. Ecco, già questo è un dato. Non attraverso la strada e arrivo a Naviglio Pavese, in cui veramente non c'è nessuno, cioè faccio una corsa in solitaria. Okay. E soprattutto scelgo anche degli orari in cui sono sicura di non trovare persone. Ecco, questo è giusto. Quindi secondo me è giusto rispettare il fatto di evitare il più possibile di uscire e avere delle precauzioni. Poi, sai, mi alleno tanto anche da casa, cerco di fare tanti esercizi. Infatti. Da ieri faccio le scale. Io abito al sesto piano, appunto, e l'ho fatto per 3 volte avanti e indietro, avanti e indietro, con i miei figli che mi seguivano. Quindi è anche un modo per allenare. Far qualcosa loro in famiglia. Sì, più che altro perché bisogna sempre mantenere anche per loro, insomma, un po' di motivazione, perché stanno facendo delle lezioni online che non sono abituate a fare, stanno facendo una vita che non sono ovviamente abituate a fare come tutti noi, e quindi spesso cerco di spronarli per uscire anche da questa situazione, perché il rischio è che poi c'è un po' di apatia, no? Sì, quindi non va bene questo, perché come ben sappiamo l'energia genera energia. In questo caso, non facendo tanto a casa, rischiamo di perdere qualsiasi tipo di forza. Ecco, tu che sei bravissima a trovare insomma cose positive da cose negative, diciamo così, come possiamo trovare nuova forza, diciamo, da questo periodo? Allora, abbiamo visto che non possiamo fare obiettivi a breve termine, cioè non li possiamo comunque mettere obiettivi a breve termine, perché non dipendono da noi, non sono sotto nostro controllo, quindi non possiamo realizzarli. Quindi secondo me è importante comunque mettere un obiettivo a lungo termine, sì, intorno magari a ottobre-novembre, è importante questo, comunque metterlo lì e tenerlo ben saldo. Poi consiglio davvero quello che faccio io, quindi vi do un po' di strategie che sto mettendo anche a punto, perché non è facile neanche per me, è quello di farsi una scaletta e farsi dei micro obiettivi giorno per giorno. Quindi io mi segno sulla mia bellissima agenda cartacea, perché non riesco a usare nessun altro tipo di agenda, degli obiettivi obiettivi che voglio ottenere durante la giornata. E soprattutto in questo momento, secondo me, è importante utilizzare questo momento per la qualità, cioè studiare cose che magari non si ha il tempo mai di fare, no? che trascuriamo e non riusciamo mai ad approfondire. Quindi magari appunto studiare qualcosa che ci interessa, studiare qualcosa anche che ci serve poi per il lavoro, quindi nel futuro, e quindi proprio una volta che poi si finisce, si conclude un obiettivo, con la penna proprio strapparlo, nel senso che comunque segnarlo, come dire ok, l'ho fatto, posso andare al successivo. Quindi è un po' una sorta di del qui e ora, cioè di pensare solo a cosa fare in questa giornata. Quindi svegliarsi e dire ok, oggi cosa posso fare? Quindi mettersi giù sicuramente delle cose, perché poi se no ci si perde molto. E quindi si perde anche del tempo, magari anche con cose veramente inutili che non servono poi a nulla. Come ci ha insegnato Fabio Vedana, che sentiremo tra poco, tra l'altro, quando dobbiamo scegliere tra qualità e quantità, abbiamo poco tempo, magari scegliamo la qualità, e questo è il momento forse. Sì, assolutamente. Appunto, come dicevo, è importante fare più qualità, pensare appunto a un obiettivo a lungo termine, e poi un'altra cosa è non cambia niente pensare in positivo. È una situazione che non pensavamo, nessuno sicuramente pensava di poter provare. Siamo tutti davvero, non sappiamo bene neanche come affrontarla, quindi stiamo cercando di trovare un modo anche bello, no? Per cercare di affrontare e superarla giorno per giorno. E quindi è importante pensare sempre in positivo, dire ok, andrà tutto bene, ce la facciamo, uniti. E poi è anche il momento veramente degli, io vabbè sono sempre un po' la parte romantica, ma anche degli affetti. Io sto rivalutando anche molto, cioè i ragazzi, i miei figli, sto imparando tantissimo da loro, che anche in questo momento devono affrontarlo, non possono fare ovviamente attività, non possono fare nulla, e vedo che comunque si stanno abituando alle loro lezioni, anche loro mi danno un po' di energia, un po' di forza. Quindi anche dalle persone che ci circondano sicuramente possiamo trovare una forza in più. E poi anche approfittare in questo momento per io non ho mai fatto videochiamate a mio padre, piuttosto che a mio fratello, a mia sorella, eccetera. È un momento in cui, non perché non sia unita, ma assolutamente sono molto unita, ma non ne abbiamo mai fatti. Adesso ci sentiamo ancora di più, e ed è bella questa cosa, quindi approfittiamo anche di questo momento per stare sempre più uniti con le persone che amiamo. Sperimentiamo nuove modalità di comunicazione. Per chiudere, sì. Ivana, quante torte stai cucinando? Allora, davvero mi sto cimentando in diverse ricette, ecco. Io sono veramente più propensa a fare dolci, quindi ieri avevo fatto i pancake, oggi io e Caterina abbiamo l'appuntamento poi nel pomeriggio per fare una ciambella, e vediamo un attimo di procedere così. Il rischio è davvero che dovremo poi fare un sacco di scale. Qui ci vorrebbe la nutrizionista. Però sicuramente ce la facciamo, ce la faremo, e tutti uniti, e mi raccomando, seguite, e io resto a casa. Ivana, teniamo duro allora, e speriamo di vederci presto qui in studio. Assolutamente. Noi nel frattempo continuiamo con il coach Fabio Vedana, che ha il telefono con noi. Ciao Fabio. Ciao a tutti, buona giornata, buon allenamento. Magari, allora Fabio, possiamo dire di essere fermi e non per un infortunio, non so se sia positiva o negativa questa cosa, ma stiamo perdendo tutta la forma a star fermi? Dipende, se siamo fermi a letto tutte le 24 ore sicuramente perdiamo la forma, e gli adattamenti che abbiamo acquisito con così tanto sacrificio nelle settimane, nei mesi precedenti. Però chiamo bene tutti che riusciamo a fare qualcosa di differente, no? Cioè, quindi chi ha il tapiro lanchi può anche andare a correre outdoor, perché comunque correre outdoor non è una cosa vietata, il decreto dice che si può fare attività, se naturalmente individuale, all'aperto, e quindi possiamo sfruttare questa possibilità per continuare ad allenarci all'aperto rispettando le regole. Noi perderemo, se stiamo completamente fermi, diciamo che le prime cose che perdiamo sono gli adattamenti periferici, quindi gli adattamenti muscolari, tendinei, e poi a seguire perdiamo gli adattamenti centrali, cioè il cardiorespiratorio, i cardiocircolatori. Quelli sono più lenti a perdersi, si passano almeno 3 settimane prima che li perdiamo. Abbiamo un po' di tempo. Quindi sì, abbiamo del tempo. E quindi per non perdere quelli periferici, il consiglio è magari anche in casa, di fare una routine di esercizi di forza, di propriocezione, che possono essere gli esercizi che si fanno a corpo libero o in piccolo spazio, che comunque è possibile fare anche per chi è recluso come noi in questo periodo. Sì. Ma i rulli, per dire, per chi va in bici? Ah, i rulli per chi fa in bici sono la panacea di questo periodo. Tutti i miei atleti stanno completamente fondendo tutti i rulli magnetici a frenatura d'aria o a frenatura meccanica. Veramente adesso è il momento in cui si utilizzano alla grande. Poi esistono tutti questi sistemi tecnologici che ci permettono di trasformare la seduta sui rulli come un grande videogioco, e soprattutto ci permettono di entrare in una community in cui abbiamo tanti altri come noi a casa loro che entrano in questo videogioco. Quindi è praticamente è un piacere, un enorme videogioco, sì. È un enorme videogioco in dove tu sei protagonista. Per chi è un po' evoluto, diciamolo qui, anche perché la spesa non è proprio... Sì, perché comunque devi avere dei rulli che abbiano certe caratteristiche, okay. Devi pagare la piattaforma, avere il computer, però... ma anche solamente il fatto di tenersi comunque in movimento, di fare un minimo di attività aerobica è il consiglio che ci dobbiamo portare a casa. Quindi se facciamo 30, 40, 50 minuti di attività aerobica al giorno, secondo me riusciamo ad ovviare la perdita di quegli adattamenti di cui abbiamo parlato prima. E poi fai una serie di routine di preparazione atletica generale, di propriocezione, di core stability, quindi una routine da 15-20 minuti che ci permette di mantenere tutti gli adattamenti che abbiamo detto periferici, quindi e quelli specialistici, per cui alla fine usciremo dalla quarantena che magari non abbiamo tutta la parte, diciamo, di adattamento ai ritmi di gara, che naturalmente poi andremo a fare, no? Sì. Quando potremo allenarci poi in libertà, speriamo presto, non saranno troppo tempo. Fabio, per chiudere, la domanda del momento per chi corre: gare e allenamenti intensi possono indebolire le difese immunitarie? Ma allora, ci sono studi che dicono appunto che allenamenti molto intensi ti lasciano in un certo senso in una finestra in cui sei un pochino più debole. Però questo è soprattutto un fenomeno per gli atleti di alto livello, gli atleti che fanno volumi di allenamento molto alti. Diciamo che per un atleta amatore che usa il raziocinio e i nostri consigli, che quindi si allena con il sorriso, lavorando soprattutto su delle intensità blande e evitando soprattutto tanti lavori di qualità successivi, io direi che anzi l'attività fisica fatta in questo modo, quindi un'attività blanda, un'attività controllata, come prescriviamo noi con le nostre tabelle, con i nostri consigli, anzi è uno stimolo a migliorare e ad incrementare le difese immunitarie. Certo, se facciamo allenamenti troppo intensi e con non adeguati recuperi, allora possiamo infilarci in questa finestra in cui le difese immunitarie si indeboliscono. Grazie Fabio, speriamo di rivederci presto qui in studio Radio 24. Non vedo l'ora di rivederti, di abbracciarti e di berci il nostro caffè alla radio. Allora, abbiamo quindi parlato di runner, diciamo amatoriali, di tutta la situazione legata al coronavirus, e proseguiamo invece con il campione italiano di triathlon olimpico Michele Sarzilla, che nuota, pedala e corre per lavoro, possiamo dire. Ciao Michele. Ciao Silvio, ciao amici ascoltatori. Come va? Ma abbastanza bene, dai. Tutto sommato. Diciamo che è un periodo un po' strano per tutti, e la straordinarietà di questo virus è che è riuscito a colpire bene o male tutti, quindi chi in maniera diretta, chi in maniera un po' più indiretta, ma tutti siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini, e così anche noi triatleti. Professionisti. Tu ti stai allenando con l'autocertificazione in mano? Esatto, sì, fortunatamente la nostra federazione, la FITRI e anche la mia squadra, la DDS, ci ha riconosciuto, ci è venuto un po' incontro, ci ha riconosciuto come atleti di livello nazionale, cosiddetti pro, tra virgolette, il che ci permette tramite un certificato di svolgere i nostri allenamenti e quindi il nostro lavoro. Perché insomma è un permesso particolare, diciamo così. Esattamente. Perché lo sport combacia anche col tuo lavoro, giustamente, per cui insomma non è una cosa ludica per te. È anche una cosa ludica, perché io trovo piacere nel farlo, è una grande passione, però è anche un lavoro, come tante persone stanno lavorando in questo momento, anche io devo essere in grado, insomma, di compiere il mio lavoro, e fortunatamente ci sto riuscendo. E qual è la situazione, insomma? Immagino che, insomma, le piscine sono chiuse e c'è un po' di difficoltà da quel punto di vista. Tu devi nuotare, pedalare e correre, diciamo. Esattamente, diciamo che in maniera particolare Siamo stati penalizzati nel nuoto appunto con la chiusura dei centri sportivi e quindi delle piscine. E ricordo che un triatleta di alto livello nuota dalle 5 alle 6 volte a settimana, quindi la piscina costituisce una parte importante della nostra preparazione. E tu sei un atleta di alto livello? Diciamo che ci provo. Quindi niente, no, sto sopperendo questa mancanza con esercizi a secco, esercizi per mantenere toniche le principali strutture muscolari. A secco sono esercizi che si fanno fuori dalla piscina, no? Esattamente, okay. Con il normale ausilio di qualche elastico, una fitball o anche solo esercizi di cuore, esercizi che puntano a mantenere appunto toniche le principali strutture muscolari e anche a potenziare alcune parti che spesso trascuriamo, magari bisogna cercare di essere furbi e di lavorare su questo aspetto, ecco. E quindi prendi l'occasione per far cose che solitamente insomma non hai tempo di curare. Esattamente. Per chiudere, Michele, tutte le gare per ora sono annullate, no? O posticipate, almeno quelle insomma nei prossimi mesi. E come fai a tenere alta la motivazione senza un obiettivo certo? Adesso non sappiamo più cosa succederà, no? No, bisogna vivere giorno per giorno. Diciamo che in questo momento ci si sente un po' come i musicisti dell'orchestra che suonava su un Titanic che affondava. Ecco. Si va avanti per puro amore allo sport e comunque perché svolgere questa attività genera in me uno stare bene al di là delle competizioni, degli obiettivi e quant'altro. Questo è anche un suggerimento che faccio a chi ci sta ascoltando a casa, a chi magari ha perso un po' la motivazione perché si è visto annullare la gara che tanto stava preparando, e qui mi includo anche io. Ne hai visto un po', diciamo. Per esempio ieri sera avevo un allenamento di serie di corsa, erano 10 da 500. E ripetute, diciamo. E al nono mi sono detto, ma che cosa sto facendo? Che cosa mi sto allenando? E poi fortunatamente con la tenacia ho portato avanti l'allenamento e l'ho finito. Bisogna comunque tenersi in forma e cercare di non vanificare tutti gli sforzi fatti fino adesso. Poi in fondo noi sportivi siamo abituati a guardare oltre, a vedere i risultati dei nostri sforzi realizzarsi in un arco di tempo medio-lungo, e quindi non ci resta altro che prendere atto di questo e spostare i nostri obiettivi un po' più in là nel tempo, in un futuro si spera prossimo, migliore e prossimo, molto prossimo, esatto. Grazie mille Michele, appena tutto sarà poi finito ti aspettiamo qui in studio. Speriamo presto, grazie a voi. E chiudiamo questa lunga carrellata con filosofia, diciamo così, con Luca Grion, runner e professore associato di filosofia morale presso l'Università di Udine. Ciao Luca. Ciao, ben ritrovato. Allora, in questi casi mi viene da dire prendiamola con filosofia, come si fa? È difficile, devo dire, prenderla con filosofia di questi tempi. Io credo che il maratoneta e il runner in generale deve tirar fuori le sue risorse migliori, che sono quelle della pazienza, della tenacia, la capacità di accettare gli imprevisti per quello che sono, ecco. Credo che la filosofia del runner in questo caso debba dare davvero il meglio di sé. Siamo abituati, no? Quando prepariamo una maratona, che c'è sempre un imprevisto, no? Tutto va in modo lineare in qualche modo. Infatti, il bravo maratoneta, il bravo runner è quello che riesce a far fronte alle difficoltà per quello che sono, così come fa fronte al tempo meteorologico, anche se non è mai quello che desidererebbe, quello che sarebbe ideale. Vero è che siamo di fronte veramente a tempi eccezionali e nessuno, credo, ha ricette pronte. Quello che possiamo fare è davvero coltivare la pazienza e provare a capire nello specifico le nostre situazioni di vita qual è il meglio che ciascuno può fare. Tu stai correndo in questo periodo? Allora, nel periodo recente, quando diciamo così le normative erano un po' più allentate, sì, dall'ultimo giro di vite ero uscito a correre il lunedì presto, quando appunto avevo notizia. Non per scelta sinceramente, ma perché un giorno sono andato a donare, il giorno dopo sentendo tutto quello che accadeva sono rimasto un po' alla finestra. Diciamo che sono tra i privilegiati da un punto di vista del quello che potrei fare al di là della normativa. Io esco di casa e sono in mezzo ai campi. Ah, ok. Quindi quello che sto provando a riflettere però è al di là della norma, al di là di ciò che è consentito, è qual è il messaggio che possiamo dare in cui tutti fanno sacrifici. È brutto anche dare il messaggio sbagliato. Per cui diciamo così, a livello personale non vedo nulla di male a uscire alle ore solite in cui corro, già normalmente non incrocio nessuno, di questi tempi ancora meno. Però ecco, mi sto facendo lo scrupolo, al di là di ciò che è richiesto, qual è il segnale che un po' tutti siamo chiamati a dare? Credo che ciascuno di noi in coscienza deve capire qual è il contributo esatto che può dare, non c'è una ricetta, non c'è solo la norma di legge. C'è davvero la coscienza individuale che dice in situazione di emergenza qual è il bene che sono disposto a portare per gli altri, che vuol dire qual è la fatica che sono disposto a portare per un bene che non riguarda solo me, ma tutti quelli a cui tengo. E per chiudere, Luca, c'è un libro che ci può venire in soccorso in questi giorni, a parte il tuo La filosofia del running? Guarda, ci ho pensato in questi giorni, molti hanno citato Manzoni, ormai è diventato quasi accusato, diciamo che ci sono tanti libri che ci fanno capire come da sempre l'uomo rifletta su queste situazioni di emergenza. A me provo a dirarla diversamente, ciascuno di noi ha il comodino pieno di libri che avrebbe voluto leggere, gli piacerebbe leggere, ecco, forse questo tempo ci regala di positivo un po' di tempo per noi stessi, quindi che ciascuno guardi il suo comodino reale o ideale e colga l'opportunità, magari una corsa in meno e qualche pagina in più. Grazie mille Luca, a presto. Grazie a voi, speriamo presto tutti insieme a correre, dai. E noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, speriamo con notizie migliori. Buona giornata a tutti. Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.